Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte quinta. Le guardie fuori dal carcere, dopo quel primo tentativo di reazione ricacciato con quella carica esplosiva al plastico al pian terreno, non hanno più reagito, anche perché a un certo punto un compagno ha mostrato dall'alto di un finestrone una bella palla arancione, che saranno stati 2 chili di plastico, e quella palla arancione lì bastava per fare venire giù tutto il carcere. E così loro hanno capito che quel primo botto non era che un avvertimento, che se insistevano poteva capitare di peggio, e poi ogni tanto qualcuna delle guardie catturate veniva anche mostrata dai finestroni dei corridoi, con un coltello alla gola, per fare vedere che erano vivi e per dire che a quelli di sotto di non tentare nessun intervento. Le guardie catturate erano state divise in piccoli gruppi e venivano spostate ogni mezz'ora in celle sempre diverse. C'erano dei turni precisi, era stato previsto tutto un sistema di spostamenti ogni mezz'ora, in modo che da fuori non si poteva mai sapere in che cella si trovavano le guardie, in modo che non era possibile tentare qualcosa per liberarle. Quelli che gestivano le trattative ci tenevano al corrente, minuto per minuto, di come andavano le cose. Dicevano che alle trattative partecipavano, dall'altra parte del telefono, oltre alla direzione del carcere e i comandanti delle guardie, anche uomini politici, rappresentanti del Ministero della Giustizia e del Governo, e che questi sembravano bloccati di fronte alla gravità della cosa. Prendevano tempo, ma sembravano anche disponibili a trattare. Quando è cominciato a fare buio, si sono stabiliti dei turni per vigilare su quello che succedeva fuori, per tenere d'occhio da finestroni protetti dalle blindate quello che succedeva intorno al carcere, specialmente le guardie che facevano su e giù per i camminamenti sui muri di cinta, che erano solo a 20 o 30 metri dal carcere, anche meno. Il carcere era tutto illuminato, forte dalle luci gialle dei proiettori, e da lì, al secondo piano dove stavamo, si vedevano, al di là del muro di cinta, una quantità di camionette, di automobili, di blindati, di furgoni, le automobili con le luci azzurre sul tetto che giravano e le camionette con fari accesi che giravano intorno al carcere e nell'ombra. Ogni tanto movimenti confusi, gruppi di gente in divisa che si spostavano qua e là nell'ombra intorno al carcere illuminato dai proiettori. Nessuno ha dormito quella notte perché c'era una tensione grossa per quello che era successo. Mi ricordo che c'era questo va e vieni di gente dentro le celle dei corridoi, un grande movimento di persone, c'era una confusione indescrivibile. Con le radio e le televisioni sempre accese al massimo, c'erano delle discussioni molto accese, non tutti erano d'accordo. C'erano dei compagni che ritenevano che quella rivolta avrebbe segnato un disastro per il movimento dei prigionieri, ma non potevano fare a meno di accettare anche loro questa situazione, perché c'erano dentro, non potevano che stare dentro, anche loro, in questa situazione, anche se dimostravano molta malavoglia nel viverla, insomma, e mentre gli altri ritenevano invece che si trattava di una grande vittoria. Però era successo che mentre questi sequestravano le guardie c'era scappato un ferito, cioè questo appuntato, l'unico graduato che si trovava nei bracci, che era un appuntato e che era rimasto ferito con una punteruolata. E questo appuntato ferito destava molta preoccupazione. era un po' la nota stonata in tutta la storia, l'unica nota stonata. Tutti quanti capivamo che un morto in quella circostanza avrebbe cambiato completamente le cose. È successo che nel momento in cui hanno sequestrato le guardie nei corridoi, questo appuntato ha tentato una reazione e un compagno che stava facendo il sequestro gli ha tirato una punteruolata nel fianco, con un punteruolo ricavato dal solito gancio del fornello del campeggio. Questo appuntato evidentemente fingeva di stare più male di quello che stava. In realtà, allora i compagni che gestivano la rivolta in più occasioni hanno trattato di rilasciare questo ostaggio ferito. L'hanno accompagnato 3 o 4 volte giù fino al cancello che segnava la terra di nessuno, che in sostanza era la rotonda del pian terreno, per lasciarglielo dicendo: noi apriamo il cancello e ve lo lasciamo fuori, ma nessuno ha compreso. E questi qua invece non lo volevano, dicevano: no, no, tenetevelo, perché voi volete soltanto prendere il pian terreno. Voi volete aprire il cancello per prendervi anche il pian terreno. Questa era la motivazione che davano, ma nessuno ha compreso che quello era un segno di quello che sarebbe successo. Altri suggerivano addirittura di segare le sbarre di una finestra e di calare giù questo appuntato con un'imbragatura, perché nessuno lo voleva lì, nessuno voleva correre il rischio che questo moriva lì, perché avrebbe snaturata tutta quanta la cosa, perché tutto quanto in fondo era andato liscio finora. Per esempio, nessuno aveva pensato di distruggere il carcere, non era stato toccato niente, non era stato distrutto niente. Mentre nella rivolta che c'era stata poco tempo prima in quell'altro speciale, il carcere era stato completamente distrutto, nel senso che lì avevano demolito tutto, avevano distrutto l'impianto elettrico, avevano distrutto l'impianto idraulico, avevano abbattuto i muri, avevano reso il carcere completamente inagibile. Io a un certo punto sono tornato nella mia cella. Non c'era nessuno, c'era un mucchio di maglioni, camicie e pantaloni sparsi sulla branda. L'armadietto era sparito. Ho buttato tutto per terra e mi sono buttato sulla branda. La televisione era accesa, ma non c'era più niente, c'era un turbinio di puntini. C'era questo che suonava il violino nella cella di fianco, suonava sempre le stesse note. Ho pensato a China e che era certo che domani non la vedevo con questo casino. Devo scriverle domani, appena possibile. Si è affacciato il mio compagno di cella. Cosa fai lì? Cosa c'è? Ti senti male? Le novità che ci sono delle novità nelle trattative e forse abbiamo vinto. Forse qua adesso vinciamo. Ma guarda, gli ho detto, non so perché, ma avevo un tono incazzato. Ma lo sai che io veramente non ne posso più. Non ne posso più veramente che siamo qua, sempre ancora con questa storia, ancora adesso con questa storia di vincere e di perdere. E che mi sembra che sia stata veramente sempre questa la nostra grande disgrazia. Tutte le volte che abbiamo pensato che la cosa che contava era in fondo solo il fatto di vincere o di perdere, mentre poi invece le cose che noi abbiamo fatto veramente non hanno mai avuto niente a che fare col vincere e col perdere. Intanto perché se si tratta soltanto di vincere o perdere, è chiaro che qua abbiamo già perso tutto e da un pezzo. Ma il fatto è che io penso, e anche tanti come me la pensano, che in fondo non abbiamo mai avuto, non solo, non abbiamo mai avuto nessuna idea né voglia di vincere, ma nemmeno nessuna idea che c'era qualcosa da vincere da qualche parte. E poi, sai, se ci penso bene adesso, a me la parola vincere mi sembra proprio uguale come a morire. Questo appuntato ferito è rimasto lì per tutto il tempo della rivolta, perché non l'hanno voluto. Non hanno voluto che glielo davamo. Questo povero disgraziato non hanno voluto assolutamente che glielo davamo. Abbiamo fatto di tutto per darglielo. ma loro non lo volevano assolutamente. È rimasto lì, sdraiato, per terra tutta la notte, fingendo di stare più male di quello che stava. Si lamentava, è passata la notte e non sapevamo più cosa fare. E poi la mattina è cominciata a funzionare la stanchezza e il timore che le cose, andando per le lunghe, avrebbero comportato qualche problema. Man mano che passava il tempo, si cominciava a sentire da più voci la stanchezza che cominciava a farsi strada. La gente era molto tesa e tutti quanti dicevano che si doveva trovare al più presto una soluzione al problema. Basta, chiudiamo questa storia qui. Fin tanto che abbiamo questo rapporto positivo, fin tanto che possiamo finire le cose bene, cioè il carcere è qua, che è tutto in piedi, non l'abbiamo distrutto, le guardie non sono state toccate, non è successo niente di irreparabile, è successa una cosa grossissima, ma non c'è stato neanche un morto, c'è un ferito con una punta irrullata e bisogna darglielo prima che muoia. Queste erano le cose che si dicevano. Questa era la tensione che c'era. Poi verso sera si sono diffuse le ultime notizie delle trattative. Uno dei compagni che conduceva le trattative è uscito dal posto di guardia e ha annunciato che le cose andavano bene, che era ormai innescato il meccanismo della smobilitazione della rivolta, che tra poco sarebbero cominciati i preparativi del rilascio delle guardie sequestrate e che insomma avevamo vinto. Dopo questa notizia c'è stato un momento di sollievo, c'è stato un momento di rilassamento, c'è stato un momento di stanchezza, ma anche di rilassamento. Tutti si interrogavano, ma adesso cosa ci faranno? Ci picchieranno? Forse no. Si facevano paragoni su come si erano concluse altre rivolte e c'erano quelli che preparavano i loro zaini perché pensavano che ci sarebbe stato un trasferimento immediato e intanto anche la sorveglianza su quello che succedeva fuori si era rallentata. Nessuno si preoccupava più tanto di vigilare dai finestroni. I compagni rassicuravano le guardie che tutto era finito, che presto le avrebbero liberate. C'era questo clima di rilassamento e di stanchezza anche alle 5 del pomeriggio, quando ormai questo clima era quello generale. Si è sentito un rumore assordante. Saranno passate 2 o 3 ore che ci sveglia la voce di Nocciola. Fuori hanno visto arrivare l'altro pulmino dei carabinieri, che ha chiuso la strada e sono scesi da tutte e due. Hanno tutti in mano i mitra e le pistole. Hanno chiuso la strada da una parte e dall'altra. Io, con un po' di fatica, mi sfilo dal sacco a pelo. Sono 5:00, è ancora buio totale. China dice piano, ti prego, dormiamo ancora un po'. Mi metto in piedi. Ho i brividi di freddo, dappertutto e come mi muovo, mi fanno male le ossa, mi vesto in fretta, scuoto un po' China che dorme con la faccia nascosta dai capelli e le dico di raggiungermi, giù in fretta perché stanno arrivando, corro in fretta giù per le scale mentre mi infilo i guanti di pelle nera bucati e mi faccio 2 giri intorno al collo con la sciarpa rossa. Già sotto nel salone, tra i resti della festa, i compagni si preparano in fretta. Terra è rimasto un mare di bottigliette, di barattoli di birra, di cartacce. Non c'è più niente sul palco. Sul muro, dietro il palco, adesso si vede bene il murale sfatto da gelso, che ieri sera nessuno ha visto con tutte quelle luci abbaglianti. Era un paesaggio tropicale, con le palme e le scimmie, sugli alberi e dietro un enorme vulcano in eruzione, con la lava rossa che scende verso una specie di New York di grattacieli. Sentiamo correre giù per le scale. Arriva giù Scilla, saltando i gradini 4 a 4, con dietro gli altri, che erano di turno a guardare la caserma. «Ho fatto il giro, dietro», dice, ansando. Sono arrivati una fila di camion che non finisce mai. Sono sul piazzale della caserma, ma la fila continua anche fuori, sulla strada. Allora si va. Barrichiamo tutte le porte. Barrichiamo le porte e spingiamo contro le panche, spingiamo contro anche il palco, contro il portone centrale e accendiamo tutte le luci. Nel salone Poi i primi cominciano a salire in soffitta, dove c'è una botola, da dove si può uscire sul tetto nella soffitta. Qualcuno incespica, spegnendo la candela a buio pesto, e si perde altro tempo per ritrovarla e riaccenderla. Scilla bestemmia e insulta tutti: cazzo di imbranati, muovete il culo, sembra un sergente alle prese con l'addestramento della sua truppa. Sentiamo arrivare i camion, che poi si fermano mentre i motori restano accesi. Nocciola spinge su China, che gli sta davanti, e sparisce anche lui su per la botola. Scilla chiede dove sono le bottiglie. Non ti preoccupare, sono già sul tetto. Saliamo per ultimi e Cotogno chiude la botola e siamo tutti sul tetto. Sul tetto non ci possono vedere perché le luci dei lampioni sono spente, perché le abbiamo rotte a sassate. Intravedo la fila dei compagni che avanzano in fila sul tetto. Da giù arrivano voci e ordini secchi, mescolati al rumore dei motori sempre accesi. Vedo Scilla, steso sulle tegole a pancia in giù, che striscia fino all'orlo del tetto. Appoggia le mani alla grondaia e sporge la testa. Io e qualcun altro lo raggiungiamo per guardare giù. Hanno spento i motori in quel momento, sono tutti schierati su tre file, con gli scudi e i caschi, con le visiere abbassate, la prima fila con i fucili con i candelotti infilati in cima, le altre due file con in mano lunghi manganelli. C'è un gruppetto di graduati e di borghesi che parlottano in fondo alla strada. La luce dei finestroni illumina la prima fila immobile, con i fucili e i candelotti rivolti verso l'alto. Ci aspettiamo che diano l'ordine di sgomberare con un megafono, perché sono convinti che siamo tutti dentro. Invece nessuno si avvicina all'edificio. Un graduato si stacca dal gruppetto in fondo alla strada, fa un gesto e la prima fila abbassa i fucili, puntandoli sui finestroni. Partono quasi tutti insieme dei colpi attutiti. Si sentono i candelotti che forano i teloni di plastica dei finestroni. Quattro bottiglie e li becchiamo tutti, dice Scilla. Tiriamole adesso, che sono tutti in un mucchio. Ma Cotogno gli mette una mano sulla spalla. Se lo meriterebbero quei figli di puttana, ma abbiamo deciso che le bottiglie servivano solo per fermarli, se non riuscivamo a uscire tutti in tempo. Andiamo via, piuttosto, dice Valeriana. Vediamo il fumo che esce dai finestroni e sale piano, denso. Cominciamo a sentire l'odore del lacrimogeno e risaliamo in diagonale, il tetto, piegati in avanti. Io getto un'ultima occhiata. I poliziotti sono ancora schierati come prima. Forse stanno aspettando che apriamo la porta e usciamo, camminando in fretta sulla cima del tetto. Ortica e un altro portano il sacco pesante delle bottiglie, che sbattono e minacciano di rompersi. Passiamo sul terrazzino e di lì scendiamo nel parco. Lì tutto è tranquillo. Non si sente nessun rumore. Attraversiamo il parco di corsa, arriviamo allo steccato e lo scavalchiamo. Lì di fronte ci sono le macchine, gli altri sono già partiti. L'appuntamento è alla sede. Ortica è già pronto a infilare il sacco nel baule di una macchina. Speriamo che non ci fermino con le bocce in macchina. Ci mettono dentro tutti. Sì, è meglio non portarle in macchina. Ci mettono dentro tutti se ci trovano con questa roba. E poi gli servirà per gettare merda sull'occupazione. È meglio che la lasciamo qui. No, è meglio che le svuotiamo, perché se poi le trovano, qui è lo stesso. Sì, ma non qui, là in fondo, dietro alla siepe. Ortica porta lì il sacco. Togliamo le bottiglie dal sacco, ma i tappi sono infilati bene e non mi riesce di togliergli. Allora spacchiamo le bottiglie coi sassi, dopo aver tolto gli antivento con lo scotch che resta attaccato alle dita, gelate dal freddo. Poi buttiamo lontano i cocci delle bottiglie. La puzza di benzina ci prende il naso e ci resta addosso anche quando saliamo in macchina. Facciamo una strada passando per i campi. Tutto è tranquillo. Facciamo un lungo giro e arriviamo alla sede. Non c'è nessun poliziotto intorno. Dentro la luce è accesa e ci sono già lì tutti i compagni. Decidiamo di andare tutti a casa e poi di rivederci qui stasera. Però bisogna che qualcuno vada a vedere che cosa fanno al cantinone. Decidiamo che un gruppo va a vedere tra un paio d'ore. Bastano 4 o 5. I compagni sfollano a piccoli gruppi, parlando a voce bassa. Gelso passa da casa a prendere la macchina fotografica. Noi restiamo lì, parlando per restare svegli, perché se smettiamo di parlare ci addormentiamo. Salvo China, che si addormenta subito, comincia a fare chiaro. Ci rimettiamo in macchina, andiamo al bar della stazione a prendere un cappuccino. Dopo un po' arriva Gelso con la macchina fotografica, saliamo in macchina e arriviamo all'incrocio. Ecco lì i due pullman e le macchine della questura, la colonna di camion non c'è più e sull'angolo opposto del cantinone non vediamo nessuno. E dico a Cotogno di fare il giro dell'isolato. Così ci fermiamo lì e facciamo le foto. Facciamo il giro e ci fermiamo all'inizio della strada che costeggia il cantinone. China e Valeriana restano nella macchina, sedute, dietro. Io, Cotogno e Gelso scendiamo e ci mettiamo dietro la macchina per non farci vedere. Gelso appoggia la macchina fotografica sul retro della macchina e comincia a scattare le foto davanti al portone. Vedo dei muratori che stanno passando il cemento su una parete di mattoni che chiude il portone. Stanno murando il cantinone. Ci sono lì dei carabinieri che stanno a guardare con le mani nelle tasche. Vediamo i teloni di plastica dei finestroni al pian terreno squarciati e bruciacchiati dai candelotti. Siamo così presi che non ci accorgiamo che una delle macchine della questura è partita, fa il giro dell'isolato e ci arriva dietro. Sento la voce di Valeriana che li vede arrivare e dice: «Attenzione, la macchina frena», facendo stridere le gomme. Scendono due da dietro, correndo. La macchina resta lì, in mezzo alla strada, col motore acceso e le portiere aperte. Due ci sono di fianco. La mano di uno impugna il calcio della pistola. Gelso non ha nemmeno il tempo di tentare di nascondere la macchina. Uno gliela strappa di mano e dice: «Che cosa fotografate?» L'altro apre la portiera e dice: «Voi due, fuori, subito, scendete!» È arrivato lì anche il poliziotto che guidava e ci chiedono a tutti i documenti. Mentre un poliziotto va con i documenti verso la loro macchina, uno fruga nella borsetta di Valeriana, mentre l'altro continua a puntarci contro la pistola. Dopo qualche istante, quello che è andato alla macchina mi fa segno di avvicinarmi. Io non capisco subito, e l'altro mi dà un colpetto con la canna della pistola. Mi incammino e mi fermo davanti al finestrino, abbassato a metà. Dietro c'è seduto un tipo con un impermeabile chiaro che spegne la luce trasmittente. In mano le carte d'identità, la mia sopra le altre. Alza la testa, mi guarda dietro gli occhiali quadrati. «Non ti basta fare casino alla tua scuola?» mi dice. Ma non è aggressivo, suona come un rimprovero a un ragazzino disobbediente. Io dico piano: «Stavamo solo facendo delle foto, non credo sia proibito». Lui non dice niente, allora mi viene in mente che quello è il dottor Donnola, il capo della squadra politica della questura, quello che anche davanti alla scuola, quando ci sono casini, se ne sta sempre lì, nella macchina, un po' lontano, a parlare nella riccia trasmittente. Uno dei poliziotti adesso gli porta la macchina fotografica, ma lui non la tocca neanche, fa un gesto con la testa e allora il poliziotto la apre e tira fuori il rullino. Poi la chiude e me la porge, in malo modo. Io prendo la macchina e la tengo in mano. Il dottor Donnola sfoglia ancora una volta le carte d'identità, una per una, poi le batte sul fondo del finestrino e me le tende. Io le prendo, mentre lui mi guarda ancora negli occhi, dietro gli occhiali quadrati, e mi dice, con un sospiro: «Arrivederci». Libri ribelli. Libri ribelli.